Milano, tenta il suicidio un giudice accusato di essere colluso con l'Andrangheta, ora in ospedale. Calcio ufficiale, la partita di domenica tra Cagliari e Pescara sarà aperta al pubblico. Iniziamo subito con la politica italiana, con una dichiarazione di questa sera del presidente della Camera Gianfranco Fini durante la trasmissione 8:30. Il signor Berlusconi è un corruttore, ha detto Fini, e ora se vuole mi quereli, io parlo agli elettori e a me dispiace che tanti amici non abbiano capito qual è la natura del PDL. La destra doveva essere un'altra cosa, il mio errore capitale è stato confluire nel PDL. Fini ha poi aggiunto a proposito della situazione italiana: l'emergenza non è finita, non si può togliere dall'agenda politica quel percorso di riforme ancora impopolari fatte da Monti, e quindi io auspico che una lista Italia abbia il consenso sufficiente per rendere possibile la prosecuzione di un esecutivo guidato da Monti. E a proposito dell'eventuale secondo mandato appunto di Monti emerso nella giornata di ieri, sentiamo quali sono gli umori dei partiti. Napolitano lo esclude, Monti no, ma i politici sì, bis contro bis. Il capo dello Stato è chiaro, nessuna ipotesi di altro settennato. Per Napolitano il mandato del Presidente della Repubblica non può essere rinnovato o prorogato. Diverso il caso Monti, il Premier non esclude un ritorno a Palazzo Chigi se ce ne fosse la necessità, una mossa per rassicurare i mercati e l'Europa durante il viaggio negli Stati Uniti. Una frase apprezzata a Berlino, il portavoce di Angela Merkel, Stefan Seibert, spiega che la cancelliera lavora bene in stretto contatto con il premier italiano. In Italia invece l'ipotesi di un Monti bis non viene vista bene dai politici. Bisogna tornare alle urne e alla normalità, spiega il segretario PD Pierluigi Bersani, mentre lo sfidante Matteo Renzi è ancora più duro: sarebbe un'umiliazione per la politica. Per Antonio Di Pietro IDV, l'idea che qualcuno voglia governare il paese senza chiedere l'autorizzazione dei cittadini esiste solo nelle dittature. SEL e CGIL invece sono contrari a Monti perché ne contestano la politica economica, mentre tocca al ministro dello sviluppo economico Corrado Passera spiegare che Monti non ha intenzione di scavalcare il voto, saranno gli italiani a decidere chi avrà la maggioranza nel prossimo Parlamento. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E nel giorno in cui il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mario Abruzzese, ha firmato il decreto di scioglimento dell'Assemblea, si aprono altri due fronti. Sotto esame i conti delle spese dei consiglieri anche di Emilia Romagna e di Piemonte. La prima per ora è un'indagine conoscitiva senza ipotesi di reati, la seconda ha visto questa mattina i militari della Guardia di Finanza in azione a Torino. Intanto un giro di vite arriva dal ministro dell'Economia Grilli, sentiamolo. Non si riferisce a nessuno in particolare, a tutti in generale. In qualsiasi caso ci siano notizie su amministratori o altri componenti importanti di società di cui il Tesoro è azionista, deve essere fatta la massima chiarezza e in maniera trasparente. Nel frattempo la vita si fa sempre più cara. L'Istat ha rilevato un aumento a settembre del 3,2% su base annua, balzo dei prezzi dei prodotti del cosiddetto carrello della spesa al più 4,7%. I nuovi aumenti da lunedì arriveranno per le tariffe di luce e gas. Per l'elettricità l'autorità per l'energia ha disposto un rincaro dell'1,4%, mentre per il gas l'incremento è dell'1,1%. Spostiamoci sulle notizie dall'estero. Il presidente americano Barack Obama e il primo ministro israeliano Netanyahu sono totalmente d'accordo sulla necessità di impedire che l'Iran si doti di armi nucleari, così ha reso noto oggi la Casa Bianca riferendo di un colloquio telefonico tra i due leader. E con la cronaca torniamo sulle notizie italiane. Il giudice Giancarlo Giusti, condannato ieri a 4 anni per corruzione aggravata dalla finalità mafiosa, ha tentato il suicidio nel carcere di Opera. Giusti si trova ricoverato in ospedale in prognosi riservata. La notizia è confermata in ambienti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Per chiudere, una notizia di calcio: via libera ufficiale della Commissione Provinciale di Vigilanza per l'apertura al pubblico dello stadio di Arenas di Quartu. Domenica per Cagliari-Pescara potranno entrare al massimo 4.398 spettatori in possesso della tessera del tifoso nel settore distinti e ospiti, ma in questo caso solo per i tifosi del Cagliari. E con questa notizia si chiude questa edizione del GR24. Roberta Giordano vi dà appuntamento per la prossima alle 23. dipendente, mi stressa. Cambialo. Si è confuso con l'inglese. Cambialo. Ha sbagliato il foglio Excel. Cambialo, cambialo, cambialo. In meglio. Al FAPI, il fondo di formazione per la piccola e media impresa, crediamo che aiutare le persone a migliorare equivalga a migliorare anche i risultati dell'azienda. Sono le persone con la loro creatività e la cultura la vera ricchezza del nostro paese. Per questo crediamo nel valore della formazione. Scegliere FAPI è facile e non costa nulla. Scopri come fare su www.fondopmi.it. È arrivata la nuova gamma 2013. Aggiornatevi! Nuova gamma Up. Abitabilità, sicurezza, tecnologia e tutta la qualità Volkswagen in soli 3,5 metri. Con nuovo motore da 60 cavalli anche per neopatentati. Nuovo allestimento Move Up con radio CD MP3, climatizzatore ed electric pack di serie e nuovo cambio robotizzato ASG. Tua da 9.500 euro con finanziamento ad anticipo zero, TAN 0, TAG 251. Scoprila nelle concessionarie Volkswagen. Offerte valide fino al 30 settembre. Info su volkswagen.it. Gruppo Euroconference, leader nel campo della formazione professionale per commercialisti, ti dà appuntamento alla nuova edizione del Master Brand. A partire dal prossimo ottobre, in oltre 40 sedi, esperienza, competenza e professionalità al servizio del professionista con la 14ª edizione del Master Brand e con il nuovo Master Brand Light Edition. Scopri su euroconference.it la sede del Master più vicina e l'offerta a te riservata. Gruppo Euroconference. Costruiamo competenze. Gli speciali di Radio 24. Ancora in diretta da Trieste Next, questa è la notte dei ricercatori, una puntata speciale, una tu per tu con la scienza, quello che succede in centinaia di enti, di università, di musei, di strutture di ricerca in Italia. Questa sera stiamo cercando di farlo anche noi radiofonicamente per darvi un assaggio di quello che significa così masticare scienza. 824 0024, il numero verde se volete intervenire in diretta per raccontare le vostre esperienze con me. Federico Pedrocchi, una delle voci di Radio 24, tra l'altro sei qui per fare delle puntate speciali da Trieste, vero Federico? Domani sera abbiamo la nostra trasmissione Mevio va sempre in onda il sabato sera e poi la domenica sera alle 23, e domani sera noi andiamo in onda con la nostra trasmissione con alcuni temi che riguardano certo le cose che si vedono qui a Trieste. Paolo Rumiz invece, triestino, camminatore, giornalista, ma soprattutto viaggiatore di penna, di piedi e di testa, e abbiamo fatto questa bella cuore, affinità di cuore, e di cuore, di pancia, insomma va bene qualsiasi elemento. E, ti sto portando al Giglio, Costa Concordia, per un viaggiatore, per un innamorato della propria terra, quell'immagine che non so, tu l'hai vista dal vivo, sei stato al Giglio? No, al Giglio non sono stato, ma ho sorvolato il luogo in aereo milioni di volte e l'ho vista dalla costa. Non è un doppio gioco, l'ho vista dalla costa toscana. Uh-huh. E per un viaggiatore, per un abituato a vedere anche la propria terra cambiare, che impatto ha quell'immagine? È una briciola rispetto all'immensità della penisola. Noi dobbiamo un po' tarare le nostre misure rispetto all'immensità di ciò che circonda la costa. La Concordia è veramente un nulla. Non conosco più di tanto quel luogo. E il monitoraggio della Costa Concordia è uno degli eventi appunto che si è messo in mostra oggi durante la notte dei ricercatori. Con noi c'è Nicola Casali, professore di geologia applicata del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze. Ciao Nicola. Buonasera. E tu sei tra i geologi o comunque fai parte del team che lavorano con la Protezione Civile. Cosa avete fatto vedere, cosa avete mostrato oggi ai cittadini? Noi abbiamo mostrato il filmato che è stato fatto dal nostro centro televisivo universitario su tutte le attività che il nostro dipartimento universitario ha svolto per conto del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile fin dai primissimi giorni del naufragio per controllare spostamenti e deformazioni della nave. Queste attività erano importanti perché in quei giorni venivano espletate le attività di soccorso da parte dei vigili del fuoco, da parte della Marina Militare e da tutte le altre unità operative coinvolte, e quindi c'era bisogno assolutamente di sapere i movimenti della nave per la sicurezza degli operatori a terra e sulla parte emersa della nave e il mare soprattutto. E c'era una curiosità scientifica o una curiosità morbosa nelle persone che venivano a partecipare a questa attività? No, è il nostro lavoro, cioè il mio gruppo di ricerca, io coordino un gruppo di ricerca al Dipartimento di Scienze della Terra che è formato da geologi, ingegneri, fisici e ci occupiamo di monitoraggio di fenomeni ad alto rischio. In generale fenomeni geologici, no? Il nostro è un dipartimento in prevalenza formato da geologi, quindi frane, rotture di argini, di fiumi, eruzioni di vulcani, effetti di un terremoto, quindi siamo abituati ormai da 20 anni di esperienza a intervenire subito sul posto e installare sofisticate apparecchiature di monitoraggio che permettono di dare informazioni alle istituzioni e alle forze di soccorso. Quindi quando c'è stato il problema del naufragio della Costa Concordia, io sinceramente mai mi sarei aspettato di essere chiamato ad intervenire su questa cosa, ma il capo dipartimento ha ritenuto opportuno coinvolgere il nostro team, probabilmente per l'esperienza fatta nel campo dei vulcani attivi, cioè nessuno sapeva come una nave di quelle dimensioni parzialmente immersa su una fondale ancora sconosciuto si sarebbe potuta muovere, e quindi abbiamo installato lì in un giorno, in una notte, in una mezza giornata, diversi sistemi di monitoraggio che normalmente noi usiamo per il monitoraggio dei vulcani attivi. Prima abbiamo scoperto che il Palazzo Reale a Torino è fermo, non si muove, e la Costa Concordia in questo momento invece si sta muovendo? Da aprile la nave è abbastanza stabile. I primi mesi, da gennaio fino ad aprile, ha avuto dei movimenti di rotazione verso l'esterno, quindi verso mare, non continui, ma in risposta a fenomeni di marea, alla discesa di marea e alle forti mareggiate. Da aprile in poi non ci sono più state forti mareggiate e quindi anche la risposta al moto di marea è stata molto minore, quindi con spostamenti millimetrici sono del tutto non significativi, insomma, per sicurezza degli operatori. Adesso noi stiamo a guardare, abbiamo un sistema di monitoraggio composto da più tecnologie che è in tempo reale, è in teletrasmissione, cioè noi controlliamo i dati da qualunque computer connesso a internet, telefonini, smartphone, tablet, qualunque oggetto che si connette a internet, perché ci interessa, cioè ci interessa, interessa agli operatori che stanno rimuovendo la nave, interessa alla protezione civile garantire la sicurezza durante le difficili operazioni che saranno necessarie per la rimozione del relitto. Non è stata imbragata anche la nave? Sì, non è lì ancora in bilico. È in corso di realizzazione, di ultimazione, un sistema di ancoraggio e di fissaggio della nave che dovrebbe impedire i movimenti maggiori, cioè uno slittamento improvviso verso mare, evento che io ritengo poco probabile. Per i movimenti più piccoli, in risposta ai moti del mare e del vento, è necessario tenere attivo il sistema di monitoraggio, perché comunque la nave si muove nonostante l'ancoraggio. Grazie davvero Nicola, e anche a te Vale, come per gli altri ospiti del nostro in bocca al lupo, e complimenti da dividere con tutto il team di lavoro. Ciao e grazie. Grazie mille. 824 0024 il numero verde per intervenire. Saluto i miei ospiti. Paolo, tu non sei qui solo per in quanto viaggiatore, ma hai all'interno di Trieste Next hai un paio di appuntamenti molto interessanti, se li vuoi raccontare? Sì, uno è un incontro con l'antropologo Marino Gnola, che si occupa di cibo, soprattutto dei piatti che vengono cucinati come luogo del meticciato, luogo in cui le civiltà si incontrano. È un libro molto bello questo che ha scritto, soprattutto perché secondo me è uno show di lingua, di grande esplosività, di grande barocchismo, che è tipicamente napoletano. Che il titolo è Il cibo tra Dio e Bio, sì, giusto? Esatto. Okay. E poi, no, è un altro titolo, Non tutto fa brodo. Ah, ok, quindi ho... Sì, è un gioco di parole, praticamente tutto il libro, dalla prima all'ultima riga. E la seconda cosa che facciamo, che è diciamo, più impegnativa, più importante, è un piccolo show che facciamo della stazione di Campo Marzio, la vecchia Sant'Andrea, che era il capolinea di una delle tre grandi linee ferroviarie che l'Austria costruì per Trieste e che adesso è in sonno, dove faremo un concerto in gran parte di musiche di Bach di Mario Brunello, solista con il suo violoncello, e io gli darò una mano raccontando delle cose che riguardano la ferrovia. Un po' un paragone tra i grandi investimenti che furono fatti allora e il nulla di oggi. Dirò anche che quella non è affatto un'ex stazione, perché i binari che ci collegano con Berlino, con Budapest o con Belgrado esistono ancora, ma non vengono usati, nonostante la caduta dei confini, nonostante non ci sia più la cortina di ferro. Quindi è un futuro, un next, che in qualche modo viene bloccato alla città. E poi ci sarà una serie di citazioni letterarie che riguardano i treni, perché i treni hanno una presenza molto importante nella letteratura mondiale. Domani sera questo? Domani sera. Perfetto. Grazie davvero Paolo e complimenti per tutto il tuo viaggiare. Saluto anche Federico, lo ringrazio per essere stato qua con noi. E facciamo un cambio al tavolo. Invito un altro padrone di casa, il rettore dell'Università di Trieste, Francesco Peroni. Aspetta, facciamo un cambio. Eccolo lì. Sì. Buonasera rettore. Buonasera. Lo so, voi siete abituati a avere a che fare col rettore, per me è sempre un po' un'emozione avere un rettore. Non è il caso. Ok. La notte dei ricercatori per un rettore che ha a che fare con col ricercatore che di fatto è una risorsa, è la risorsa probabilmente di base dell'università. Lei cosa dice ai suoi ricercatori? Qual è il messaggio che cerca di trasmettere nella sua quotidianità? Beh, non è facile oggigiorno trasmettere un messaggio di fiducia, però bisogna trasmettere nello stesso tempo un messaggio di resistenza, di non abbandono del percorso di ricerca. Quindi, pensando a questa manifestazione, per un rettore una manifestazione così è un po' una contraddizione, nel senso che c'è da un lato l'aspetto gioioso, il fatto che, come dire, si contempla tutto questo splendido patrimonio che è offerto alla percezione del pubblico, e nello stesso tempo c'è la considerazione di quanto questo patrimonio rischia di diventare precario, o forse è già precario per la situazione di grave sottofinanziamento e di finanziamento in cui il sistema universitario nazionale e in generale la ricerca scientifica in Italia si trovano. E quindi è un po' una quotidianità, per venire invece alla quotidianità, divisa tra il resistere, il combattere, e quindi cercare di trasmettere fiducia ai giovani soprattutto, e magari, come dire, qualche notte di sconforto serale quando si rientra a casa. La notte dei ricercatori è un esempio, lo è Trieste Next. È difficile raccontare quello che succede dentro all'università all'esterno? Ma non so quanto sia difficile. In realtà l'università in generale è qualcosa di, credo, ben conosciuto. Insomma, è una città, non solo a Trieste, popolata da tantissime persone, quindi forse è più difficile spiegare cos'è un centro di ricerca. Ecco, l'università è qualcosa di molto più popolare, di più facile e accessibile. Forse è più difficile far capire quanto è difficile l'organizzazione che sta alle spalle e quanto complesso raggiungere certi obiettivi a fronte di certe difficoltà, che non sono poi solo le difficoltà finanziarie, ma sono anche una serie di complicazioni inutili che forse in questo paese abbiamo l'abitudine di cercarci. Qui è Next, ma noi guardiamo anche al passato. La domanda che è un po' il tormentone della serata: lei se li ricorda quei mesi o quegli anni da ricercatore? Che ricercatore era il rettore di Trieste? Dunque, io ho fatto un percorso non facile, nel senso che mi sono laureato giovane, all'epoca le lauree erano quadriennali, quindi a 23 anni ero laureato. Ho fatto però 8 anni di quello che oggi si chiama precariato, all'epoca non si chiamava così ma era la stessa cosa, quindi ho lavorato tanto sostanzialmente facendo il volontario in un dipartimento, e ho fatto 3 anni di borsa di studio di dottorato. Ma a parte questo, diciamo, sono diventato ricercatore 8 anni dopo la laurea, qui a Trieste, quindi questo spiega perché sono qui. Grazie davvero al rettore, una sua buonanotte, è la notte dei ricercatori, quindi la buonanotte nel senso un incoraggiamento a chi si sta... Assolutamente, questo è un appuntamento molto importante proprio perché nel mostrare quello che siamo come patrimonio, in questo caso qui a Trieste, possiamo anche far comprendere a tutte le persone che ci osservano quanto è importante anche per loro una ricerca e un'università forti. Grazie davvero. Grazie a tutti voi. Buon lavoro. Noi continuiamo a viaggiare, andiamo a Venezia, perché la notte dei ricercatori è anche una sorta di contaminazione. Sì, la scienza che si mette in mostra, ma è la scienza anche che diventa un mix con la musica, con i numeri, con l'arte. E in particolare la contaminazione con l'arte è il cuore di un'attività che inizierà fra pochissimo, tra una mezz'oretta siamo a Venezia, all'interno del Veneto Night 2012, cortile grande di Ca' Foscari, le invenzioni. Secondo Philippe Daverio, il critico d'arte accompagnerà il pubblico in un viaggio nel tempo e nell'arte, appunto mettendo al centro le invenzioni. Philippe Daverio qua con noi, buonasera. Eccolo qua, buonasera. Di che cosa parliamo? Ma noi pensiamo sul momento, se no non c'è una discussione sull'invenzione. In realtà ho sentito prima Rettore che parlava del fare il ricercatore, ma se avesse ragione Pablo Picasso che diceva io certo trovo, allora bisognerebbe fare accanto ai ricercatori un'area dei trovatori, cioè quelli che trovano anche, perché la ricerca serve a trovare, no? Ed è su questo gioco fra ricercare e trovare che voglio fare una conversazione questa sera, andando a vedere qual è il percorso per passare da ricercatore a trovatore. Ma la risposta ce l'ha già o la improvviserà? No, la risposta è stata spiegata in un modo geniale da Arthur Kreutzer, quel grande pensatore disordinato psichicamente, quello che è stato fra guerra di Spagna, Israele, comunista, postanti, con quello di Buio a Mezzogiorno, no? Sì. Il quale sostiene che la ricerca scientifica, quella artistica, hanno un meccanismo metodologico in comune con la commedia. Cioè ciò che fa sorridere è ciò che fa creare ed è ciò che fa inventare. Ed è l'ipotizzare un percorso assolutamente diverso da quello che uno si deve immaginare. È solo rompendo il percorso stabile che si inventa il percorso della creatività. Questa è la risposta. Come si fa a trasformare il ricercatore in trovatore? Ma quella di questa sera sarà una passeggiata? Farà vedere oggetti d'arte? Farà vedere immagini? Ma io sarà quando faccio le conferenze, avendo avuto un'infanzia terribile universitaria con le proiezioni delle immaginette della Kodak, cioè quelle che giravano sul carusello, e di solito il professore e la professoressa ne sbagliava una e andava a testa in giù, poi cadeva tutto il coso dei Kodak per terra, io tendo di fare conferenze sulle immagini senza usare immagini, perché ognuno di noi le immagini le ha nella testa e crea molta più forza evocativa tentare di suscitare l'attenzione dell'immagine cerebrale è quella di proiettarla. Le cose in video le facciamo per la televisione, le conferenze sono fatte della carne del conferenziere. Ci piace, molto radiofonico. Grazie davvero a Philippe Daverio. Okay. Buona passeggiata attraverso le invenzioni. Ricordiamo alle 23, cortile grande di Ca' Foscari, siamo a Venezia, mentre andiamo a Verbania da Arianna Broggi, studentessa dell'Istituto Tecnico Industriale Cobianchi di Verbania. Anche lei, insieme ai ragazzi della sua scuola, oggi hanno presentato il progetto col quale credo abbiano vinto un concorso. Giusto Arianna, ciao. Sì, buonasera. Sì, noi abbiamo partecipato a un concorso da prima a marzo a Milano che si chiamava I Giovani e le Scienze 2012, era un concorso di tipo scientifico. Noi abbiamo partecipato con un progetto riguardo l'acqua, in particolare la rimozione di alcuni contaminanti fluoruri dalle acque dell'Africa utilizzando delle biomasse a basso costo, e tramite questo progetto siamo riusciti a vincere la partecipazione al 16° SIWI, che era un premio giovani sull'acqua che si è tenuto a Stoccolma lo scorso settembre. E oggi questa ricerca l'avete raccontata ai vostri coetanei? Sì, l'abbiamo raccontata ai nostri coetanei, l'abbiamo raccontata anche a persone più mature che ci sono venuti a trovare qui a Verbania, alla notte dei ricercatori, che sono stati molto interessati al nostro progetto facendoci domande, incuriositi da quello che noi avevamo scoperto. Ecco, e un progetto come il vostro è più facile da realizzare o è più facile da raccontare? è più facile da raccontare senza dubbio, perché per realizzarlo, cioè più che altro è per la preparazione al nostro progetto che è durato un anno e mezzo. Poi comunque come progetto in realtà risulta essere molto semplice, però la preparazione che noi abbiamo dovuto avere per poterlo realizzare è durata molti mesi, alla ricerca comunque di materiali che potessero permetterci di ottenere questa rimozione degli inquinanti dalle acque. Grazie davvero Arianna, anche a te in bocca al lupo e complimenti insieme a tutta la tua classe, ciao. Torniamo invece dai ricercatori che sono qua in studio a Trieste, passo il microfono a Sara Samari, giusto Sara? Ciao, e tu Samara sei Università di Trieste e partecipi a un progetto che si chiama IGEM. Corso internazionale. Sì. Che si chiama IGEM. IGEM, sì. Scusa, che è tutto scritto qua un po'. Di cosa si tratta? IGEM è un concorso internazionale sulla biologia sintetica. La biologia sintetica è una scienza nuova che si sta sviluppando da circa 10 anni ed è un insieme tra la biologia e l'ingegneria. Mm-hmm. Per partecipare a questo concorso io e il mio team, siamo in 7, 6 ragazzi di genomica funzionale e un ragazzo di fisica, sempre dell'Università di Trieste. Abbiamo dovuto ideare e realizzare un progetto appunto di biologia sintetica e abbiamo creato The Jolly Joker, che è un batterio buono, un probiotico che vive all'interno del nostro intestino e produce un anticorpo in grado di proteggerci dal norovirus, che è un virus che si sta diffondendo in questi ultimi tempi e che causa disenterie e problemi gastrointestinali. Per te la ricerca che cos'è? Cosa rappresenta nella tua vita? Attualmente la mia vita è la ricerca, nel senso che per fare questo progetto lavoriamo tutto il giorno, tutti i giorni, sempre, e ci stiamo dando passione, cuore, anima, risorse economiche, tutto quello che possiamo è lì. Speriamo che i nostri sforzi vengano ricompensati la prossima settimana. Andiamo ad Amsterdam e per sfidarci con tutte le migliori università europee, siamo in circa una 50 di università, ci saranno università molto importanti europee, particolarmente Lubiana, sì, che è molto brava nella biologia sintetica, e solo 16 università passeranno la fase tra virgolette regionale, la fase europea, e a novembre ci sarà la fase mondiale a Boston con tutte le università che hanno vinto in tutti i continenti mondiali del mondo. E noi siamo qui anche perché una parte del progetto implica l'human practice, cioè la divulgazione scientifica della biologia sintetica, far conoscere la gente, in particolare i ragazzi, e per questo facciamo anche Next, e far conoscere la biologia sintetica e la funzione che ha. Cioè rappresenta in parole semplici la capacità di aggiungere una funzione specifica a un microorganismo andando a modificarne il genoma. Ok, quindi cose complicatissime da studiare, però appunto c'è anche l'impegno del spiegarle, del renderle minimamente comprensibili a noi umani, ecco, sì, lasciamelo dire, sì, noi da questa parte del tavolo, vero, anche i tecnici tutti e noi. Grazie, vero. Quando ti ho chiesto però per te che cos'è la scienza, la persona che era al tuo fianco si è messa a sorridere, perché credo che per te, Eolo, dico bene, ti chiami Eolo? Mi chiamo Eolo, sì. Che è un nome impegnativo da portare. A Trieste decisamente, collabora a 180, sì, decisamente. Tu sei un dottorando settore di astrofisica della SISA, per te la ricerca che cos'è? Beh, la ricerca è ciò che ci rende consapevoli e quindi ci consente di progredire, di rispondere a domande. È un modo di migliorarci come singoli elementi, e come gruppo di ricerca e come persone. Prima parlavamo anche Colac, del motore, però, di quell'incipit, di quella leva che appunto ti fa studiare tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Qual è? C'è curiosità, forse c'è anche non una forma di predisposizione, ma una predisposizione a concentrare tutte le energie per moltissimo tempo su un unico problema. Si racconta che le ultime parole di Einstein furono: solo un monomaniaco può ottenere quello che noi chiamiamo risultati. Noi non arriviamo certo a quei livelli, però ci dobbiamo lavorare parecchio. Tu di cosa ti occupi? Io mi occupo di teoria della gravitazione. È una roba molto matematica. o meglio, se parlo con i colleghi fisici, loro mi dicono, beh, in fondo tu sei un matematico, ma quando parlo con i matematici mi dicono, beh, tu sei un fisico, so solo quello che non sono e provo a capire anche quello che sono giorno per giorno. Tutto quello che sei tu, un astronauta, lo deve sapere? No, non necessariamente, può vivere tranquillamente senza occuparsi di relatività generale. Ok, glielo chiederemo subito dopo la pubblicità. Robochip, fammi analisi cliente. Cliente, 7 lettere, 4 consonanti, 3 vocali. Tutto qui. Una risposta di qualità deve andare oltre i numeri. Scegli Assicom per le informazioni commerciali, il recupero crediti e tutto il valore aggiunto di risorse umane qualificate. Assicom, persone e servizi con tutti i numeri. Assicom.com. Hai capito che succede? Con Opel tagli più di metà del costo carburante e della rata. Operazione meno 50%. La nuova gamma Opel GPL Tech da 99 euro al mese. Taigot 78. Scopri di più su opel.it. Cambiare è possibile. Cambiare le cose, il mondo. A partire dai gesti di ogni giorno. Sono piccoli passi, ma si comincia così. Prendi parte al cambiamento con il tuo progetto di startup. ING Direct ti invita a partecipare a un concorso di merito. Potrai vincere un contributo di 100.000 euro per avviare la tua idea di cambiamento. Fai il primo passo. Vai su www.prendipartealcambiamento.it o sulla pagina Facebook di ING Direct Italia. I am happy, I'm feeling glad I got sunshine. 01 Distribution presenta. Buonasera signora, sono il commissario Calabresi. Posso parlare con suo marito? Dal regista de La Meglio Gioventù. Davvero commissario, lei pensa che uomini dello Stato possano aver voluto la morte di tante vittime innocenti? Dimenticati di aver visto questa roba. Dimenticati anche tutto il resto. Romanzo di una strage. Un film di Marco Tullio Giordana. In DVD e Blu-ray. Gli speciali di Radio 24. La notte dei ricercatori, questo speciale di Radio 24 interamente dedicato alla scienza che si studia, la scienza che si applica, la scienza che si spiega, tanti eventi oggi in giro per l'Italia, qui in particolare a Trieste, non solo per la notte dei ricercatori ma per Trieste Next, questa tre giorni interamente dedicata alla scienza. Ci si sta mettendo in gioco a vari livelli e tra gli ospiti più attesi c'era anche Samantha Cristoforetti, astronauta dell'ESA, prima astronauta italiana a prendere parte a una missione nello spazio, e oggi si è avuto la possibilità di cenare con un astronauta. Ciao Samantha. Buonasera, grazie dell'invito. Ma grazie a te. È stata una cena particolare, hai parlato di quello che mangiate, credo. Sì, ho portato dei campioni di cibo che gli astronauti mangiano nello spazio, abbiamo parlato un po' di quali sono le caratteristiche che deve avere il cibo per mantenere gli astronauti in salute nello spazio. A terra siamo fortunati perché abbiamo accesso a cibo fresco, pieno di nutrienti, soprattutto mangiando frutta, verdura di stagione. Gli astronauti questo lusso non ce l'hanno. Anno, mangiamo nello spazio cibo disidratato o comunque a lunga conservazione, però in qualche modo se non altro cerchiamo di mangiare una dieta bilanciata da un punto di vista calorico, di nutrienti, in modo da poterci mantenere in salute anche in questo ambiente abbastanza ostile che è quello dell'assenza di peso, della microgravità per 6 mesi, quindi per un periodo abbastanza lungo. E quindi abbiamo parlato un po' di questo grazie a questa conferenza promossa dal Centro di Biomedicina Molecolare in collaborazione col Comune di Trieste e con l'Università di Trieste, sia questa mattina con dei ragazzi delle scuole medie che si sono dimostrati molto, molto attenti, anche molto vivaci e partecipi, e poi questo pomeriggio con il pubblico. Qui la domanda sarebbe come si diventa astronauta, perché insomma credo che sia la domanda che ti faranno tutti. Invece insomma arriveremo anche a quello magari, però voglio capire cosa si prova ad essere astronauta, perché è il sogno di tutti, no? O fai il calciatore, o fai la velina, o fai l'astronauta. Sono tre i sogni quando vai a chiedere ai ragazzini cosa vuoi fare da grande, no? Un astronauta tra l'altro con i piedi per terra, perché non hai ancora fatto parte della... Sì, mi sto addestrando per la mia prima missione nello spazio, che sarà tra 2 anni, all'incirca nel novembre del 2014. Sarà una missione di appunto all'incirca 6 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale, questo laboratorio in orbita intorno alla Terra, a circa 400 chilometri, dove penso sia adeguato alla serata, alla notte dei ricercatori, si fa principalmente ricerca in condizioni di microgravità, sia nelle scienze della vita, sia nelle scienze fisiche e molto molto anche proprio di fisiologia umana, e sicuramente anche lo studio sul metabolismo e quindi come adeguare la nutrizione alle variazioni del metabolismo nello spazio è sicuramente uno degli elementi importanti della ricerca scientifica a bordo. Che cosa si prova? Che si oscilla un po' tra il cercare di entrare comunque in una routine, anche se è eccezionale quello che facciamo, perché alla fine per questo siamo pagati, per cercare di trasformare l'eccezionale in routine attraverso l'addestramento, e comunque ogni tanto dei momenti in cui ci si ferma e ci si rende conto che siamo comunque persone che hanno questo grande privilegio di poter andare nello spazio, e quindi anche la grande responsabilità non soltanto di fare bene il nostro lavoro, ma anche di cercare per quanto possiamo di condividerlo il più possibile, quindi virtualmente di portare con noi tutti quelli che vogliono venire nel nostro viaggio. Credo che non sia facile però anche qui trasmettere il bagaglio di competenze, di conoscenze tecniche, tecnologiche, scientifiche che un astronauta deve portarsi con sé. Non è facile, soprattutto anche trasmettere il fatto che noi non siamo in realtà scienziati, non facciamo ricerca, noi siamo operatori, quindi a bordo della stazione siamo le mani e gli occhi degli scienziati, però per esempio quando un astronauta mette le mani su un esperimento delicato non è da solo l'investigatore principale, lo scienziato responsabile di quell'esperimento solitamente è in console a terra e supporta per eventuali domande o dubbi, e, insomma, per essere sicuri che l'esperimento sia condotto nella maniera migliore. A Samantha, resta con noi, facciamo un piccolo giro in Italia, un altro paio di iniziative che si stanno svolgendo in queste ore. Andiamo a Roma, abbiamo parlato tanto dei bambini questa sera, la notte dei ricercatori ha invaso anche Explora, il museo. Con noi c'è Patrizia Tomasic, direttrice di Explora. Ciao Patrizia. Salve. Qui si parla di astronauti, voi invece avete dato da mangiare, avete cucinato un menù preistorico, vero? Sì, guarda, è divertente perché ancora tra un quarto d'ora finirà, dalle 7:30 con l'ISIPU, l'Istituto di Paleontologia Umana, e con l'AIRC, l'Associazione di Ricerca sul Cancro. Da una parte, guarda, ti dico dai titoli, veramente sono cose molto divertenti, mostrami i denti e ti dirò chi sei. Quindi i ricercatori dell'ISIPU hanno portato proprio appunto dei denti, e quindi i bambini hanno già toccato questi denti del repertorio, dei reperti appunto dell'ISIPU, e quindi proprio attraverso i denti dei tigri, dei denti a sciabola, degli elefanti, della foresta eccetera, per capire poi dopo alla fine, no? Come si è evoluto anche poi, come siamo evoluti noi, che cosa mangiavamo 2 milioni di anni fa. E poi c'è tutto anche il laboratorio su chi mangia cosa, sulla catena alimentare, cioè scoprirsi prede, ma poi alla fine predatori, e poi di nuovo prede, eccetera, eccetera. E poi invece un'altra cosa, due appuntamenti, prego, dimmi. Stavamo ascoltando. Ecco, due cose appunto, appuntamenti sempre molto carini nel padiglione di Explora, sono uno con il ricercatore Fazzi della Sapienza, e anche il ricercatore dell'AIRC, più frutta più verdura, microscopi e vai. Ok, insomma, ci hai dato un panorama di quello che sta accadendo, i bambini protagonisti, perché insomma la scienza per fortuna li incuriosisce in maniera anche istintiva, quindi è giusto accogliere questa loro voglia, questo sì. Bisogno di sapere. Grazie sì, a loro. Ragione, ciao Patrizia. Sì, grazie mille. Ciao. Buona serata. Ciao. Samantha, qual è la domanda che più spesso ti fanno, la più frequente? Come si diventa astronauti? È questa, vero? Sì. È la seconda, c'è un qualche aspetto particolarmente curioso che cattura l'attenzione del pubblico? Beh, le cose quotidiane, come ci si lava, come si dorme, come si va in bagno, in genere il grande pubblico si interessa più a questi aspetti, di quotidianità. Mm-hmm. Cose, tu sai già queste risposte perché le hai studiate, sì, o certo. Nei simulatori già le hai sperimentate? Beh, no, si studiano in maniera teorica a terra, perché chiaramente non è che si possa spegnere la gravità e togliere il peso, quindi ci sono dei simulatori, però chiaramente a un G, come diciamo noi, quindi in peso normale, poi nello spazio ci si deve un po' adattare all'inizio per imparare a fare tutto queste cose effettivamente in assenza di peso. Mm-hmm. Chi l'assenza di peso invece l'ha sperimentato è Paolo Nespoli, anche lui astronauta ESA, che oggi era protagonista di tante iniziative nella Notte dei Ricercatori a Frascati. Ciao Paolo, benvenuto alla Notte dei Ricercatori. Buonasera a tutti. Ecco, tu alla stessa domanda hai potuto rispondere prima e dopo di essere stato nello spazio. Hai cambiato le risposte nel tempo? Ma il problema è che la situazione o quello che trovi nello spazio, innanzitutto ognuno vive questa cosa in un modo diverso e quindi ognuno la sente in un modo diverso, ma la situazione che uno trova nello spazio, sulla stazione spaziale, girando attorno alla Terra, è una situazione veramente diversa che ti porta a vedere le cose in un modo diverso, a sentire le cose in un modo diverso e ti lascia un pochettino così sconvolto per quanto tempo tu ti sia addestrato a fare tutte le tue cose, la maggior parte del tempo a fare gli esperimenti, a gestire la stazione spaziale, a fare tutte queste cose, quando arrivi su sei in questa situazione di microgravità completamente diversa, quindi il risultato è che sì, l'esperienza una volta arrivati su ti sorprende, quello che mi ha sorpreso che è ancora molto più bella e simpatica di quello che uno può pensare. Una domanda poi ti lascio, che so che hai un impegno, ecco, un astronauta, soprattutto nei confronti dei bambini o dei più giovani, per te è più facile divulgare scienza, nel senso ti guardano comunque come una sorta di supereroe, quindi c'è una sorta di attenzione privilegiata? Ma forse alla fine sì, per qualche motivo, non so se ti guardano come un supereroe, ma il fatto di avere una tuta blu, il fatto di rappresentare quello che è nato nello spazio, in effetti io sento un pochettino più di attenzione, sento di riuscire a scatenare la presenza, scatenare questa sensazione di cosa nuova e diversa, ma insomma alla fine l'importante non è tanto come si sentono, ma l'importante è di riuscire a farli pensare, a fargli capire che c'è un futuro, a fargli capire che possono lavorare e riuscire veramente a raggiungere i sogni, anche quelli più improbabili e impossibili. Grazie davvero Paolo e complimenti anche a te per tutta la tua attività di divulgazione. Ciao e buona serata. Un saluto a tutti e buonanotte dei ricercatori a tutti. Grazie, ciao. Samantha, anche per te era un sogno sulla carta irrealizzabile? Beh, non lo so, non ho mai pensato che fosse irrealizzabile, ma chiaramente sapevo che sarebbe stato molto difficile. Però sì, anch'io l'ho sognato fin da bambina, quasi tutti gli astronauti hanno avuto questo sogno fin da piccoli e penso che in generale, indipendentemente poi dal raggiungerlo o meno, è un grande vantaggio nella vita, una grande fortuna quella di avere un grande sogno, perché ti spinge nella quotidianità a dare sempre il meglio, ad andare un pochino oltre. Quando c'è una scelta tra la strada facile e la strada difficile, si sceglie quella difficile e quella in genere è l'occasione di crescere e di migliorarsi e di confrontarsi con i propri limiti e magari superarli, quindi è quello secondo me è più importante che poi effettivamente realizzarlo o non realizzarlo, e anche perché poi sei più felice. Io cito ogni tanto Steve McLean, un astronauta canadese, un mio collega canadese più giovane lo incontrò tanti anni fa quando ancora non era astronauta e gli chiese: ma Steve, a me piace il tuo lavoro, ma come devo fare? Dov'è la strada? E lui rispose: ma non ci pensare, l'unica cosa che hanno in comune tutti gli astronauti è che sono persone felici, quindi tu pensa a fare quello che ti piace, ad essere felice, ad essere bravo, e poi quando l'occasione viene, se viene al momento giusto, prendila, ma intanto pensa ad essere felice e realizzato. Tu sei testimone di questo assioma, nel senso che comunque testimone e testimonianza, soprattutto nel senso che esprimi felicità quando parli di quello che fai. Torniamo a Trieste Next, un paio di laboratori che si stanno svolgendo, si svolgeranno nelle prossime giornate qui a Trieste. Do la parola al professor Claudio Tuniz. Professore, buonasera. Buonasera, cosa sta combinando lei? No, funziona. Sì, io ho presentato a Next la mia ultima scoperta, che in qualche modo è anche collegata con il cibo. Ho fatto un viaggio poi nel tempo invece che nello spazio, perché ho presentato una mandibola di un uomo di circa 7.000 anni fa, un istriano, che per curarsi il suo dente ha usato, lo ha otturato con della cera d'api. Per fare questo ovviamente abbiamo usato i mezzi più avanzati disponibili dalla fisica, anche con acceleratori di particelle per datare la cera e il dente, luce di sincrotrone per fare tomografie. Comunque siamo riusciti a dimostrarlo e l'abbiamo pubblicato proprio la scorsa settimana. Perfetto, grazie davvero. Passiamo la palla anche al professore Walter Gerbino. Gerbino, perfetto. Professore, lei invece cosa... Col mio gruppo ho presentato un laboratorio, ci sarà anche domani, su psicofisica in cucina. È un gioco a proposito di peso, di assenza di gravità, invece sul peso percepito in condizioni molto naturali, quando noi solleviamo delle confezioni di cibo in cucina, al supermercato, abbiamo un'impressione di peso e questa impressione di peso è molto influenzata dal volume della confezione. E facciamo sperimentare direttamente ai bambini e agli adulti diversi tipi di sollevamento, simulando anche delle misure di laboratorio, cioè in condizioni piuttosto controllate, e otteniamo degli effetti che tutti riconoscono come sorprendenti, errori nell'ordine dei 100 grammi su 250 in funzione appunto del volume. Questa è un'illusione nota dall'Ottocento che però continua a funzionare, è una di quelle cose, un universale percettivo, un universale della sensazione che ci accompagna in tutte le operazioni quotidiane legate al semplice sollevare degli oggetti. Le piacerebbe fare questi esperimenti anche sulla stazione orbitante? Questi non hanno senso perché questi specifici, però ci sono una molteplicità di illusioni sensoriali di relative all'integrazione tra le informazioni provenienti dai vari sensi, che ha molto senso sviluppare anche in ambienti un po' diversi da quello terrestre, perché la modalità dell'integrazione multisensoriale è veramente la modalità principe nel nostro relazionarci con l'ambiente. Perfetto, grazie davvero e complimenti. Ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua la notte dei ricercatori. Legalmail.it, la tua posta elettronica certificata, vi presenta Strade in diretta. Buonasera, sul tratto appenninico dell'Autosole c'è un chilometro di coda per lavori tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione sud verso Firenze. Traffico scorrevole sul resto della rete, si segnala la chiusura per lavori della 3 Napoli-Salerno nel tratto compreso tra Salerno e Cava dei Tirreni in direzione Napoli fino alle 6 di domani mattina. Chiusa fino alle 6 anche la 24 Roma-L'Aquila-Teramo tra San Gabriele Corredare e Assergi verso Roma. In Sicilia disagio agli imbarchi tra Messina e Villa San Giovanni a causa dello sciopero della compagnia di navigazione Caronte Tourist. Ricordiamo che l'agitazione proseguirà fino all'una di questa notte. Ed è tutto, il prossimo e ultimo aggiornamento tra circa un'ora. Gli speciali di Radio 24. La notte dei ricercatori, ancora un quarto d'ora insieme per parlare di scienza. Ho appena guardato Samantha, l'astronauta, e gli ho detto la cosa strana è che sei normale. Lei ha riso giustamente perché era un'affermazione banale, però normalità e spazio sembrano due cose così lontane, invece tu mi hai detto proprio perché sono normale probabilmente sono diventato un astronauta, questa cosa. Sì, lo dico sempre, ci credo, bisogna essere molto normali per diventare astronauti, e normali è un termine naturalmente non corretto, un po' per ridere, però bisogna essere persone da un punto di vista psicologico, insomma una via di mezzo, non essere troppo introverse, timide, ma neanche essere persone eccessivamente estroverse che vogliono sempre essere al centro dell'attenzione, essere giustamente competitivi e ambiziosi, ma anche essere capaci di lavorare in squadra e di mettere l'obiettivo della squadra davanti ai propri obiettivi, quindi sono tutte caratteristiche che tra virgolette io dico sinteticamente insomma normali, senza grandi eccessi. Ma da bambina eri appassionata di scienze? Sì, da bambina ero appassionata soprattutto di avventura, leggevo libri di avventura da Jules Verne a Salgari alla fantascienza, poi insomma nell'età delle medie, poi chiaramente del liceo si è consolidato un interesse particolare per la scienza, la tecnica. Io poi ho studiato ingegneria aerospaziale e poi mi sono appassionata al mondo del volo militare, ho anche insomma fatto un certo tipo di scelta di vita. Dopo la laurea nel 2001 sono entrata in Accademia Aeronautica, quindi sono diventata un ufficiale dell'aeronautica militare, un pilota militare. Per poco tempo in realtà, perché poi appunto è uscita questa occasione che è, insomma è una nella vita, quindi bisogna coglierla, di partecipare al concorso per astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea, e ho avuto la fortuna appunto di essere selezionata. E l'hai colta. Chissà invece se la parola fortuna è stata pronunciata dal professor Gian Francesco, giudice fisico del CERN di Ginevra, che al planetario di Milano, in occasione della notte dei ricercatori, ha parlato delle tracce del bosone di Higgs. Buonasera, giudice. Buonasera. Lei è un ricercatore, ha lavorato al progetto, che insomma il progetto di cui tanto giustamente si è parlato, non un punto d'arrivo ma un punto di partenza. C'è stato anche un elemento di fortuna in tutto questo vostro lavoro? Allora, va detto che non ho lavorato nel progetto, io sono un fisico teorico, quindi io non lavoro sulla macchina, sulla progettazione, certo, sull'operazione della macchina, quanto sull'interpretazione del significato del risultato degli esperimenti. Per quanto riguarda la fortuna, in questo caso direi veramente di no, non è proprio l'esempio. Ci sono tantissimi esempi in fisica delle particelle dove la fortuna ha giocato un ruolo essenziale, nel senso che si costruisce una nuova macchina e poi di sorpresa si scopre qualcosa di altamente non aspettato. Questo non è il caso per il bosone di Higgs. Sono tantissimi, ormai decenni, sono 50 anni che la teoria è stata, 50 anni è stata proposta, e da decenni che ormai c'eravamo sempre più convinti che questa particella doveva esistere, quindi direi in questo caso la fortuna non ha giocato un grande ruolo. Giudice, oltre che di scienza, questa sera stiamo parlando anche di comunicazione della scienza, ecco, quando fa lei gli incontri, in che direzione vanno le domande, la curiosità su cosa verte? Proprio per questo direi che quando si racconta la storia dell'LHC, che da una parte è un'avventura dal punto di vista tecnologico incredibile e dall'altra anche dal punto di vista concettuale, io scopro sempre che è la seconda parte quella che stimola di più. Sono bellissime le immagini di questi rivelatori di particelle, anche proprio dal punto di vista artistico sono delle immagini stupende che comunque dimostrano anche la potenza delle nostre capacità tecnologiche, però tutti sono affascinati soprattutto dal significato di queste scoperte e quindi più dall'interpretazione teorica direi che non dall'applicazione tecnologica. Per lei è stato un punto d'arrivo o un punto di partenza? Assolutamente un punto di partenza direi, in questo momento lo è, nel senso che il bosone di Higgs è un po' il avere trovato il come un certo fenomeno avviene. Adesso la domanda è il perché avviene, e questa domanda è particolarmente interessante dal punto di vista di fisica teorica, e ci sono tantissime domande aperte. Proprio la stessa scoperta del bosone di Higgs ha forse più aperto più domande di quante ne ha risposte, e quindi adesso gli esperimenti continueranno per migliorare le precisioni e darci nuove informazioni per farci capire che cosa sta dietro al bosone di Higgs, perché noi in tutti questi ultimi anni abbiamo sempre più sviluppato teorie che spiegavano il bosone di Higgs, non tanto la sua esistenza, ma quanto che cosa ci sta dietro, perché il bosone di Higgs esiste e che cosa dà luogo ai fenomeni associati al bosone di Higgs. Buon lavoro e buona ricerca, credo che sia l'augurio migliore per i prossimi anni di attività. Salutiamo il professor Gian Francesco Giudice, fisico del CERN di Ginevra, e andiamo al volo, abbiamo giusto un minuto, torniamo a Torino con Eric Orso, team leader di robotica et Polito del Politecnico di Torino. Avete presentato, ciao Eric. Ciao. Avete presentato una sorta di badante per anziani robotica, Ambrogio, un maggiordomo, un badante. Che cos'è questo robot? Sì, l'idea è nata l'anno scorso da me, Andrea e Matteo Guasco, che era di rendere i robot semplici a sufficienza da poter entrare nelle case e poter essere usati da tutti. Abbiamo quindi proposto alla nostra università di poter costruire un robot per aiutare anziani e disabili. Per poter fare questo il robot deve essere in grado di obbedire a comandi vocali, chiaramente deve essere semplice da utilizzare, deve poter manipolare degli oggetti usando un braccio, deve potersi muovere in autonomia, deve permettere per esempio a un dottore di poter visitare in maniera remota il paziente o di permettere ai cari di poter comunicare con il paziente. E a un anno di distanza abbiamo completato il nostro hardware e adesso è qui che viaggia per la piazza Ambrosio, che riesce a fare abbastanza queste cose qua. Chiaramente l'aiuto anziani è solo uno degli aspetti che può fare. Immagino, una volta certo. che si sviluppa un robot in grado di fare tutte queste possibilità, lo si può declinare per fare guida da musei, per poter aiutare nelle case o fino al limite dell'immaginazione. È la nostra ambizione di poter concretizzare il nostro lavoro fino a far diventare Ambrosio un prodotto commerciale e poter farlo entrare davvero nelle case di tutti. Come anche con l'aiuto dei nostri sponsor e delle aziende che ci aiutano. Erika, anche per te la stessa domanda, nel senso che i robot ovviamente affascina perché fa parte del nostro immaginario da sempre, ma spaventa anche, nel senso quando vai a dire che probabilmente potrebbe entrare in tutte le case questo robot, qual è la reazione del pubblico? Molto spesso si ha paura che il robot esattamente rubi il lavoro delle persone e quindi sia un danno alla società. Io lo vedo molto come è stato nella rivoluzione industriale, quando i robot agricoli sono entrati nei campi e hanno sostituito i braccianti. È vero, il lavoro di braccianti si è ridotto, ma questo ha aperto altre possibilità e altri lavori in altri posti. I robot, almeno per molto tempo, non riusciranno ancora a progettare o a fare lavori, diciamo, molto più intellettivi. E questo qui, secondo me, togliere lavori tra virgolette di manovalanca e trasferirli in lavori più creativi, secondo me darebbe un grosso valore aggiunto. Perfetto, grazie davvero Eri, complimenti a te e a tutto il tuo team, ciao e buon lavoro, ciao. lanottedeiricercatori.it, vi ricordo il sito anche dove poter conoscere l'intero programma, ormai è tardi quindi dovete correre se volete partecipare a uno degli ultimi eventi, però rimane un bellissimo catalogo del sapere in Italia, delle tante anche declinazioni che può avere la scienza. Sono contento di chiudere questa puntata con Samantha, abbiamo parlato di sacrificio, abbiamo parlato di sogno, abbiamo parlato di studio, di competenze, di fortuna. Per te però non c'è anche questa componente della paura? Cioè, vai a fare una cosa particolarmente difficile, non è un freno? No, non è una dimensione che vivo, per la verità. Immagino che, almeno raccontano gli astronauti, che proprio al momento effettivamente del lancio, di essere seduti in rampa e sentire aspettare l'accensione dei motori, un po' di apprensione c'è, però paradossalmente quasi tutti raccontano che c'è molta più apprensione nel guardare il lancio degli altri, quindi aspettare quel momento dell'accensione dei motori e l'immissione in orbita, quando si è da fuori, si guarda e là dentro ci sono degli amici, quando invece si è noi stessi in rampa a vivere questo momento, a vivere questa avventura, raccontano che ci sia un pochino più di distacco, quindi è un po' questo che mi aspetto. Però no, nella quotidianità in realtà vivo questo momento con grande entusiasmo, anche con grande piacere, non solo nell'attesa del momento del lancio, ma anche nella quotidianità dell'addestramento. Lo vivo con grande entusiasmo e con grande piacere. Ma in questo momento dove vivi? Vivo un po' con la valigia in mano, in spostamenti continui nei vari centri di addestramento. La maggior parte del tempo lo passo divisa tra gli Stati Uniti, Houston, quindi la NASA, e la Città delle Stelle, questo luogo storico anche molto suggestivo nelle foreste di Betulle fuori Mosca, dove dai tempi di Gagarin si addestrano i cosmonauti e gli astronauti. Però un po' di tempo anche nel centro di addestramento di Colonia, ho fatto qualche viaggio, farò qualche viaggio in Giappone, ho fatto un po' di addestramento in Canada. È un progetto veramente internazionale, gli equipaggi e i personali di supporto a terra sono internazionali, è anche uno degli aspetti che mi affascina molto del mio lavoro, la possibilità di vivere in un mondo così aperto e multiculturale. Ok, torniamo veramente in pochi secondi alla domanda di partenza: cosa mangia un astronauta alla fine? L'astronauta mangia dei menù che si ripetono ogni 8 giorni, messi insieme dai nutrizionisti per essere naturalmente bilanciati da un punto di vista dei nutrienti, però oggettivamente sono dei cibi o disidratati o comunque, diciamo, a conservazione, termostabilizzati, irraggiati. Mancano un pochino i cibi freschi, però devo dire che c'è uno sviluppo tecnologico in questo periodo, anche negli ultimi anni, che ha permesso di rendere questi cibi sempre più appetibili. Li hai già assaggiati? Qualcuno